li perdevamo spesso, perché poi abbiamo iniziato quest'anno con proprio con l'obbligo dentro di noi, ognuna chi più chi meno, di fare bene le gare individuali, e quindi di non dico di tralasciare proprio, però di non tirare, di non dare tutto durante le gare a squadre. Sì, sì. E quindi ne soffriamo, è peccato, siamo forti, piace tantissimo, però ci rifaremo per le prossime Olimpiadi, per chi ci arriverà. Ma sì, Eli, grazie davvero di tutto. E a nome di tutti, Elisa Di Francesca, grazie. Ciao. Sentiamo subito dopo il traffico con Pierluigi Pardo, con voi 800 24 00 24, un po' di voci di calcio, dopo partita, esigenze di mercato, cose del genere, insomma. Torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. E torniamo con Pierluigi Pardo. Bellissimo parlare con una delle nostre donne d'oro, Elisa Di Francesca. C'è chi non è d'accordo su Mosca. Roberto scrive: è una delle città più affascinanti del mondo, de gustibus. Ma sì, va, quello, è chiaro che lì c'è una rivalità, poi, quasi un'inimicizia, perché sì. Insomma, poi Elisa in questo è fantastica, perché ma non è che ci gira attorno, no, non, va abbastanza dritta, va distoccata, sì. Quindi ci piace anche di più per questo, insomma. È ovvio che lì evidentemente non so cosa si riferisse sul giocare sporco, però certamente, insomma, la nostra nazionale si è sentita alcune volte, diciamo, minacciata con una serie di mezzi che vanno a sono borderline per quello che riguarda la correttezza. Sai. E quindi evidentemente giocano in casa, molti soldi, giocano in casa, molti soldi. Gli arbitri della scherma sono anche importanti, eh? Gli arbitri della scherma sono determinanti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi poi si può intendere nella maniera che, però, guarda, si preferisce. Torno veramente, poi mi taccio veramente all'esempio che questa squadra dà a tutto lo sport italiano e più in generale all'Italia, perché io sono stato a Iesi a suo tempo a intervistare l'Italia di Francesco. Quella è una città, soprattutto Iesi, ovviamente, non soltanto Iesi, che vive per la scherma, dove c'è questo mix di tradizione veramente degli antichi maestri con però l'innovazione, gli strumenti più moderni, più tecnologici dell'allenamento. C'è soprattutto una voglia di vincere che, ripeto, se ce l'avessimo noi tutti italiani, mi ci metto io per primo, dalla mattina alla sera, di essere squadra, di ragionare in maniera collettiva, di voler dimostrare al mondo che alla fine abbiamo un talento che è unico, io penso non sia retorica, io penso che questa cosa fa la differenza. Molto spesso noi facciamo il miracolo dell'ultimo minuto, no, riusciamo a salvare delle situazioni terribili col colpo di genio, ci salviamo dai casini all'ultimo. Pensa se invece lavorassimo ogni giorno come fanno queste ragazze, a tutti i livelli, di squadra, senza individualismi eccessivi, che paese saremmo? Sì, ma che no, poi, no, beh, che poi, che poi che, se capita di salire in pedana anche una contro l'altra, se le danno di santa ragione, ma quando stanno dalla stessa parte, ma questo è sempre successo, perché Vezzali, Trillini, eccetera, è sempre venuto fuori questo spirito competitivo che non... magari non le portava ad andare fuori a cena, a ballare tutte le sere insieme, però quando si mettono dalla stessa parte sono praticamente imbattibili. Ma questa è la squadra più forte del mondo da ormai due lustri, quindi non è una novità. A Iesi c'è anche Mancini, no? Era anche la città di Mancini, come ben sai. Marchegiani, Mancini, che alla vigilia della sfida con il Bayern dalla Cina, che commenterai domani, giusto? Sì, esatto. Corretto, bene. Sì. Ha parlato di un Inter, è tornato a parlare di un Inter da scudetto, pensa un po' tu. Cosa dici? Ah no, scusa, pensavo dovessimo sentire la dichiarazione, perdonami. Mancini l'ha sempre fatto, devo dire la verità che questo è assolutamente coerente. Lui anche nei momenti più difficili, più complicati della sua gestione lo scorso anno, ha parlato sempre con sfrontatezza, certe volte anche esagerando dal punto di vista razionale, secondo me, di un Inter che si sarebbe presto riavvicinata e che doveva pensare agli obiettivi più importanti. È chiaro che c'è una componente di autoconvincimento, dove per auto intendo non se stesso, ma tutto il popolo nerazzurro. Cioè è chiaro che Mancini prova Non è che così, cioè, così facendo ti metti un sacco di pressione addosso, Pierluigi. Ma la pressione ce l'hai comunque se ti chiami Inter, se sei una delle 5-6 squadre che devono per forza vincere o provarci, la pressione c'è. Quindi secondo me, soprattutto poi se vieni da anni complicati come quelli che ha vissuto l'Inter, io penso che ci sia oggettivamente una crescita tecnica della squadra. Certo. La squadra sta nascendo bene, sta facendo un grande mercato, continuerà. Vedremo come andrà a finire il mercato, cioè, magari non è, anzi quasi certamente ancora non è completa, mi sembra una squadra intelligente, equilibrata, ma da lì a dire ci siamo per lo scudetto mi sembra davvero tanta roba. C'è altra Milano, Mihajlovic dopo il 2-1 patito a Lione ha parlato, e qui te lo faccio sentire, di un argomento mica nuovo, difficoltà difensive del Milan. Sapevamo che loro comunque sono più avanti di noi in preparazione, hanno una squadra già collaudata, noi diciamo siamo ancora un po' cantiere aperto, abbiamo cambiato modulo, siamo indietro in preparazione e tutto, ma posso essere soddisfatto per la prestazione, visto in che punto di stagione siamo, che abbiamo ancora bisogno di lavorare tanto. Sì, cerca di metterla sul delicato, però è chiaro che il difensore centrale del Milan lo vuole, e che Romagnoli, che Garcia ha detto tra l'altro dall'Australia alla vigilia della gara col City che potrebbe giocare con la maglia della Roma naturalmente nelle prossime ore, però sempre di quello si parla, no? Sempre di quello si parla, io credo sempre di quello si parlerà. Sì, Romagnoli è l'obiettivo del Milan, è anche l'obiettivo del Napoli, è uno dei pochi difensori che in prospettiva, magari non subito, non nel primo anno, non lo so, a me sembra pronto già per essere un punto di riferimento assoluto, sicuramente se anche non è pronto adesso lo sarà poi per anni. Quindi ma il Napoli, scusami Pier, il Napoli fuori dalla Champions, che adesso prima o poi arriveranno anche Astori ed Allan, che è sempre De Laurentiis, la classica storia infinita, li può scucire 30 per Romagnoli, perché la Roma ne vuole 30 e non fa un passo indietro. Li può scucire secondo me, perché poi il Napoli può fare cassa davanti vendendo qualcuno che secondo me deve vendere, perché davanti rischia di avere troppi mugugni, cioè troppi giocatori per pochi posti in campo, quindi secondo me davanti un sacrificio eccellente ci potrà essere, e con quei soldi deve assolutamente, secondo me, Napoli comprare un grande difensore. Poi se è Romagnoli o non è Romagnoli possiamo discuterne, ma non credo sinceramente, con tutto l'affetto per Astori, che Astori possa arrivare adesso con l'etichetta di uno che ti risolve problemi difensivi. Astori è un buonissimo giocatore, reduce da una stagione difficile dopo una buona, secondo me si può rilanciare ma non è quello che ti cambia la vita, non è il prossimo Nesta, tanto per intenderci, speriamo che lo sia Romagnoli. Napoli lì ha secondo me il problema principale, cioè dall'anno scorso il Napoli da due anni facciamo da qualche anno problema lì. Perché un grande centrale il Napoli non ce l'aveva nemmeno con Mazzarri. Luca Perugia, buongiorno, poi Antonio, provincia di Latina, buongiorno Luca. Buongiorno a lei. Buona estate, dica. Buona estate, senta, io volevo dirle una cosa, no? Sento parlare di tanti acquisti qui là, sotto, sopra, no? Tutte queste squadre, ma se il presidente Tavecchi ha detto che si potrebbero iscrivere solo tre squadre della Serie A, come facciamo ad andare a comprare tutti questi personaggi che vengono dall'estero, quando potremmo scegliere i nostri rivali, ci sono fior di giocatori anche nelle serie inferiori? Sarebbe meglio scegliere tra le serie inferiori, far crescere questa gente anziché andare a spendere fior di miliardi quando non possiamo? C'è chi lo fa e chi lo fa un po' di meno perché ha altri obiettivi, altre piazze da accontentare, altre pressioni e magari altri denari da spendere. E, insomma, se vogliamo ridurre la Serie A a un campionato primavera, non so in quanti potrebbero aver voglia di guardarlo. È un discorso che certamente vale, è un discorso molto lungo e molto complicato, ma ci sono anche squadre, ad esempio Sassuolo, di cui poi sentiremo voci di ritiro, che serenamente gioca in Serie A con un sacco di giocatori italiani, e non è l'unico. Luigi, sei ancora, vero? Sì, ci sono. No, ma infatti... Cioè, voglio dire, se vuoi partecipare a un certo tipo di mercato, allora ci partecipi. Poi questa storia delle tre, delle cinque squadre potranno iscriversi, arriverà, non è ancora attuale, prenderanno i loro necessari e dovuti provvedimenti. Poi vediamo. È chiaro che una squadra, un campionato di Serie A, 5 squadre, non esisterebbe più. Vorrebbe dire chiudere la Serie A, cosa che non credo possa avvenire. Sentiamo anche Antonio dalla provincia di Latina, poi ci fermiamo per la borsa. Pronto, buongiorno. Dica. Volevo fare una domanda a Pierluigi. Prego. Senti Pierluigi, con i nuovi innesti in Napoli e con l'avvento di Sarri, può ambire a qualcosina in più, aggiungendo quei difensori che mancano? Sì, sì. Grazie e buona giornata. Antonio, guarda, io penso che il Napoli già l'anno scorso avesse un potenziale migliore di quello che si è visto, cioè non era una squadra da quinto posto, secondo me. E secondo me doveva fare di più in campionato, poi le coppe lasciamole perdere, ma in campionato si giudica della regolarità la squadra e il Napoli è mancato. Per cui quest'anno ha una base solida alla quale sono stati aggiunti giocatori importanti. Se arriva un grande difensore, per me il Napoli è fortissimo. Mi aspetto che davanti ci sia una partenza eccellente, perché che non Higuain, però insomma un altro tra Cagliacor, Mertz, secondo me sono veramente tanti lì davanti. E su Sarri c'è molta, chiaramente in questi giorni c'è anche un po' di letteratura, no? Nel senso che sì, hai letto oggi Sconcerti su Corriere della Sera, simile a Sacchi, porta diversità. Sì, no, ma Sarri è un bravo allenatore, mi ha dimostrato lo scorso anno di essere bravissimo, che era sponsorizzato da Sacchi per il Milan, che secondo me piace molto ai napoletani, perché dopo la stagione scorsa con Benitez, in cui la squadra ha fatto meno di quello che ci si poteva aspettare, c'è voglia di una squadra affamata, di una squadra che... Diversa. Sarri secondo me rappresenta questo, dell'uomo che si è fatto da sé, del ragazzo di provincia che però, anche se è andato a Napoli, che però si è fatto, non ha avuto niente di regalato dalla vita, si è conquistato tutto. E quindi da questo punto di vista, secondo me, io sono stato a Napoli un qualche giorno, mi sembra ci siano tutti i migliori auspici. Poi c'è anche un po' di letteratura, chiaramente, insomma, la macchina spara palloni, il drone, la dieta, perché pare che se non mangi guardi solo partite, speriamo che mangi, mancherebbe altro. Però questo tipo di atteggiamento capisco che possa piacere ai napoletani, dopo essersi scottati nel finale soprattutto della stagione scorsa. Pier, ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. 800 24 00 24, numero verde. Il signor Pardo è pregato di cambiare telefono. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Amici, so perfettamente che è stato anche un weekend particolarmente funesto e disgraziato per il mondo dello sport, da Gilles Bianchi, di cui parleremo poi più tardi con Leo Turrini, a due piloti di moto che nel Moto America sono morti a Laguna Seca, Martinez e Daniel Rivas, al fatto che si è spenta una bandiera del calcio di Cosenza, Gigi Marulla, per un infarto. Quindi tutti temi estremamente tristi che ci riagganciano alla vita oltre che allo sport. Allora, adesso facciamo, prima di un giro al mercato, un giro ai ritiri. E allora dove andiamo oggi? A Frosinone, tanto per cominciare. Ma dobbiamo, nel reparto offensivo dobbiamo ancora fare qualcosa, il direttore è al lavoro e senza fretta, nel senso che non ci dobbiamo far prendere la fretta, perché comunque gli impegni importanti saranno tra un mese e il campionato sarà tra un mese e mezzo, quindi dobbiamo cercare di interveniamo sul reparto offensivo. Questo era naturalmente Stellone. C'è poi il Torino, parla Ventura. Io ho ancora tanta voglia di lavorare, ho tanta voglia di allenare, perché per me allenare e allenare soprattutto giovani è adrenalina pura, cioè mi dà gioia. Quindi quando i Bonucci e Ranocchia a 20 anni andavano in nazionale dal Bari, quando Immobile, Darmian e Cerci andavano ai mondiali, quando spero altri di questi andranno, è un motivo di grande gratificazione. Mi farebbe piacere un giorno riceverli. Quindi nella vita mai dire mai, però fateci un pensiero, ragazzi. I tifosi dell'Inter che fanno fatica a sopportare Ranocchia in maniera anche eccessiva. Io sono convinto che tornasse alla scuola del maestro Ventura, avrebbe un rendimento molto differente, molto differente. Cioè adesso il problema è l'ego dei, ma ne parliamo nei prossimi giorni perché è interessante. Avrete detto dei 70 esuberi in squadra di Serie A, le rose ristrette a 25 secondo determinati criteri, e ci sono, lo sapete bene, squadre che devono vendere e vendere anche giocatori importanti. Sappiamo in questi giorni la trattativa tra l'Inter e lo Schalke 04 ancora non conclusa per Shaqiri. Tra l'altro Mancini ha detto che non sa se Shaqiri giocherà in questa amichevole di domani con il Bayern di Monaco. C'è Cerci al Milan, ci sono i soliti Dumbia, Gervinho, Ljajic della Roma, ci sarebbe Mario Gomez alla Fiorentina visto che è tornato in campo, e questa è invece una delle notizie splendide del weekend, Pepito Rossi. C'è Llorente della Juventus, poi si passa per i vari Maresca, Nocerino, Vidic, eccetera eccetera. Insomma, gli esuberi sono una settantina. Il problema è che se ti trovi a dover per forza vendere, cedere dei giocatori per regolamento, è chiaro che la situazione offre un vantaggio a chi te ne viene a cercare. Perché? Perché fatalmente giochi a ribasso. Io so che tu devi vendere e quindi magari vendi alle mie condizioni invece che alle tue. Allora, visto che abbiamo parlato di Napoli prima e ci sono vari ascoltatori che vogliono parlare di Napoli, che mandano messaggi sul Napoli, come questo: ci vorrebbe un Ruud Krol per far fare il salto di qualità al Napoli, scrive Dante da Busto. Ruud Krol, grande giocatore, ma secondo me servirebbe qualcuno un po' più veloce, un po' più adatto, un po' più adatto al gioco di Sarri. Ruud Krol era un grandissimo, grandissimo regista difensivo. Su Sarri e sul modulo di Sarri ha parlato Gabbiadini. Secondo me questa è la sua forza, perché cura tutto nel dettaglio, perché dice che comunque giochiamo in una categoria che il minimo dettaglio fa la differenza a fine campionato, quindi è uno che tiene molto a queste cose, anche alle piccole cose, ma piccolissime, che alla fine ha ragione lui, alla fine fanno la differenza. Ah, nel 4-3-1-2 mi sta provando un attacco, è il ruolo che mi piace di più. Nel 4-3-3 punta centrale, però posso fare anche l'esterno di destra volendo. Questo era Gabbiadini, e questo invece per Luigi Pardo, che c'è, ci sei. Cosa ne pensi di questa storia per cui comunque i club italiani adesso devono sfrondare l'albero? Cioè sono costretti, sono obbligati. Tu vuoi andare a prendere, faccio un esempio, Llorente, faccio un altro esempio, Shaqiri o Gervinho, ci hanno provato anche, però è evidente che questo può indurre l'acquirente a giocare a ribasso. Ma assolutamente, ci sono dubbi. Fra l'altro questa limitazione delle rose si associa al mercato veramente faraonico che stiamo vivendo quest'anno, quindi insomma con una contrazione delle rose, cioè nonostante le squadre italiane stanno giocando, no, come se niente fosse, spendendo una marea di soldi nel fare grandi acquisti, qualche colpo è saltato in uscita, come quelli di Gervinho, per esempio per quanto riguarda la Roma, che sembravano fatti, e altri, cioè Shaqiri, alla quale facevi riferimento tu, rimane lì sospesa. È un problema, è chiaramente un problema, insomma, però non è che si sapeva, ecco, sì. Si sapeva, sicuramente non c'è stato il massimo della programmazione, però è anche vero che dei rischi le società se le devono prendere, anche perché poi sarà interesse stesso dei giocatori e dei loro procuratori andarsi a cercare delle squadre. Certo. O magari accettare loro stessi delle offerte senza tirarsela più di tanto. Quindi io penso che alla fine la quadra la si troverà. È chiaro che quel numero di 70 giocatori di esubero è tanto. Fa effetto, no? Poi fa però l'esubero fa pensare a realtà e problemi molto più seri, con tutto rispetto, di quelli di un calciatore di una squadra di Serie A. Quindi però la verità, la fredda cronaca è questa: 70 diviso 20 significa una media di 3,5 per squadra. Sì, sì, sì. Cioè, e come ho detto, spesso sono giocatori che guadagnano molto e che magari hai pagato molto, come appunto è il caso di Shaqiri, per cui questa trattativa è ancora in piedi. La Juventus l'ha venduto molto bene invece, uno dei suoi gioielli, perché Vidal per quei soldi è tanta roba. Sì, guarda, ti dico la verità, con i prezzi di quest'anno secondo me è il prezzo giusto, non è così clamoroso. Un anno fa sarebbe stato... Però è anche vero che l'anno scorso non ha fatto una stagione eccezionale. Insomma, secondo me alla fine è un prezzo che ci sta. Non è una valutazione assurda, secondo me, non è... Però è una valutazione congrua. Secondo me la Juve ha fatto bene a venderlo. È chiaro che, certo, è come dicevamo qualche giorno fa, un po' di rischio la Juve, il cui mercato non è certamente finito adesso, perché adesso comprerà, un po' di rischio se lo sta prendendo, perché comunque quando smantelli la squadra, anche se tutte le operazioni sono giuste, sono tecnicamente perfette, no? Perché Pirlo, scelta di vita, giocatore ormai anziano, Tevez, scelta di vita, e comunque lo vendi a una diretta concorrente, Vidal, offerta di un certo livello, poi devi ricostruire, però poi un minimo devi ricostruire, e c'è un margine di rischio, perché quelli di prima li conoscevi e sapevi quello che ti potevano dare. Questi che stai prendendo, e che la Juve ha già cominciato a prendere, comunque li dovrai vedere alla prova del campo, sì, e non puoi sapere se avranno la stessa... In quel contesto, anche se sono tutti giocatori provati, noti, più o meno, no? Kedira lo conosciamo, Dybala ha fatto una grande stagione... Ma infatti, se tu mi chiedi una sensazione, io ti dico che la Juve, secondo me, non si sta indebolendo. Però è chiaro che un margine di rischio si può stare. E allora chi prenderà la Juve lo chiediamo a Luca Marchetti da Sky al volo, poi mandiamo il traffico e torniamo a parlarne con calma. Luca, io intanto buongiorno, io vi dico che più Draxler che Goetze. Sì, per questioni di ingaggio, cioè di ingaggio elevato di Goetze, prezzo. Sì, per questioni di prezzo, anche se poi alla fine il prezzo di Goetze, se andiamo a spulciare i conti del Bayern Monaco, non è poi così diverso da quello di Draxler, Ma l'ingaggio sì, però l'ingaggio sì, il doppio almeno, ma almeno. Però la Juve sta lavorando tutti e due, obiettivamente in questo momento 60-40 Draxler. Benissimo, ci fermiamo per il traffico e poi torniamo a parlarne di Juventus, ma anche delle altre. Battaglia, andiamo da Nando San Vito. Nando, tutti convocati. Tutti convocati. Ragazzi, potete, magari tu Pier, che spesso sei a Napoli, potresti dire a Sarri di non fumare mentre dirige l'allenamento, perché così vuole un ascoltatore che si chiama Claudio. Mi fai sto favore. Presenterò. Senti, Drexler come lo vedi? Goetze già un po' secondo me è meglio. Beh, certo, è un giocatore più formato. Insomma, Draxler chiaramente va in una direzione che è più quella di, certo, di puntare su talenti di prospettiva. Chiaramente Dybala parte dello stesso discorso, Rugani pure. Insomma, è una Juve, secondo me, che quest'anno bisogna vedere come finisce il mercato, ma dà la sensazione di voler investire su se stessa per poter durare a lungo. E secondo me è un'ottima strategia in questo momento, nel medio periodo sicuramente. Ci potrebbe essere magari l'anno prossimo qualche impatto, perché comunque perdi molto, ma io penso perdi molto ad oggi soprattutto come personalità. Se poi alla fine se tu vai a mettere i nomi, a sommare, insomma, sì, sì. Non vedo grandissimi problemi dal punto di vista tecnico. No, io neanche. Vedo un'incognita, nel senso che comunque Pirlo, Vidal e Tevez sono tre giocatori di grandissima personalità. Questo è vero, questo è vero. Però puoi aspettarti che Pogba, che adesso possiamo dire dalla Juve non andrà via, la Juve lo ha blindato, lo ha detto, chiunque vinca le elezioni del Barcellona, eccetera, eccetera, Pogba rimane lì. Puoi aspettarti che cresca dal punto di vista della personalità, puoi aspettarti che magari Dybala, che avrebbe avuto bisogno di un anno di scuola da Tevez, possa crescere ancora, che Morata, che è arrivato addirittura prima del dovuto in ritiro, abbia tanta fame. È chiaro che sono un po' delle scommesse. Luca Marchetti, ci sei? Sì, sì, eccomi, eccomi. Eccolo, senti, parlavamo... Purtroppo sono d'accordo con Pardo, non so se è un problema questo per la trasmissione o comunque mio in generale. Però... No, no, ma il problema è che siamo d'accordo tutti e tre, sai. Ma credo siano d'accordo tutti i tifosi della Juventus e quelli che guardano il calcio. Mi sembra un'analisi perfetta questa, anche se torno a pensare che da un punto di vista tecnico la Juventus non si vada ad indebolire. No, no, sono d'accordo sul discorso della personalità, infatti, sull'esperienza, perché è inevitabile che un ragazzo del 92 ne abbia di meno di uno del 78, che poi magari si chiama Pirlo, però a livello tecnico la Juventus sta facendo, secondo me, un mercato molto intelligente e molto quotato, perché sono arrivati comunque dei giocatori che non potranno far altro che continuare a giocare così, mm-hmm, se non a crescere. È chiaro che però un conto se hai Pirlo e Tevez e Vidal che certe partite le hanno già giocate e vinte, altre che invece hanno sognato di giocarle. Però è anche la vita, se vuoi. Sì, mi interessa molto questo progetto tecnico della Juve. Ci sono tanti 91, 92, 93 che giocheranno il prossimo anno. Comunque partono da un tale vantaggio per cui avranno anche fatto i loro conti, continuo a pensare. Luca, al volo, la tarantella su Allana e Astori quando finisce? Ma uguale, io l'avevo data per finita già da una settimana, infatti lo so, così non è stato. È il solito problema, poi i tifosi a Napoli ci prendono in giro, ma purtroppo è così. Sono i diritti d'immagine dei giocatori che vanno a giocare nel Napoli che creano più problemi di quelli che uno si possa immaginare. E poi alla fine parliamo di milioni di euro, di un'acquisizione da milioni di euro, quindi è normale che uno che fa l'avvocato di professione lo guardi con grandissima attenzione. Detto questo, non sono a rischio le operazioni in alcun modo. È solo questione di tempo. È solo questione di tempo, di diplomazia, sai. Comunque lo sponsor tecnico sulla storia ha fatto investimento anche da un punto di vista internazionale, perciò non dipende soltanto dalla sezione Italia, dalla sezione international, chiamiamola così, che deve rivedere. Perciò sai, con due fine settimana di mezzo, l'estate, il caldo che non è solo in Italia, magari non è neanche il primo dei tuoi problemi, perché magari invece speri di poter strappare a Napoli quello che non ha strappato mai nessuno, però alla fine il giocatore a Napoli gioca, dai. Sì, non è tutto chiaro. Anche questo trasferimento. Come dicevo qualche giorno chiaro. Fa, che è facile sorridere un po' di questa cosa e magari prendersela anche con De Laurentiis, no? Perché in questo momento i tifosi del Napoli vedono soltanto le negative di tutta questa situazione, le lungaggini di mercato. Però poi in realtà l'analisi vera bisognerebbe farla con un po' di bilanci, nel senso che poi alla fine se questi certo. immagine contribuiscono al bilancio economico del Napoli e poi vuol dire che danno beneficio alla società, che sono altri soldi che si possono investire, per cui sicuramente il Napoli ha un approccio originale, particolare sulla questione e sicuramente è più lento delle altre. Poi se De Laurentiis segue questo approccio non penso che sia stupido e faccia tutto questo perché si autolesionista. Il caso con Alon, Luca è un esperto di mercato, insomma magari è un'eccezione. Sì, ha pesato. Il discorso Pier, i giocatori che vanno a Napoli lo sanno che c'è questa cosa qua, ormai non è più un segreto, no? Quindi il problema sarà più per tutto l'entourage, quindi i procuratori, gli avvocati, quelli che ti procacciano lo sponsor, piuttosto che per il giocatore. Il giocatore lo sa che se va a Napoli deve cedere il 100% dei diritti d'immagine, chi si pagare quei diritti d'immagine lì all'interno della trattativa. Una volta che raggiungi l'accordo, poi se ci vuole una settimana in più per firmarlo effettivamente, perché ti devi liberare da tutti gli altri contratti che hai firmato, già lo sai. Certo, non certo, è più una sorpresa. Certo, certo, certo, certo. Luca, due ultime cose. A Roma si legge accordo raggiunto con i giocatori, cioè con Salah e con Dzeko, ma non con... Con i giocatori, con Dzeko sicuramente sì, con Salah io credo che non sia l'unica ad aver raggiunto un accordo. Sta ballando su più tavoli. E non è neanche la prima volta che lo fa, peraltro. No, a parte gli scherzi. A mettersi d'accordo con la Roma è la parte più facile. Vai a giocare in una grande città, in una piazza che fa la Champions League, che vuole vincere il campionato o comunque lottare per farlo la prossima stagione. Su Dzeko non ho dubbi, perché diciamo che lo hanno tenuto come alleato in questa trattativa in piedi con il Manchester City. Su Salah, ripeto, secondo me anche l'Inter è d'accordo con Salah. Anche l'Inter è d'accordo con Salah, tutti sono d'accordo con Salah, poi vediamo che maglia mette, intanto non è stato convocato per il ritiro. Intanto ieri Bale è andato a farsi fare l'autografo da Totti, per questo è stato bastonato un pochino dai giornali, sai, no? dai giornali sapevo, spagnoli, ma d'altra parte sai anche che Totti sta per lasciare la Roma e andrà all'Antalya Sport con Italia Sport, insieme sai, a Toro, esatto. Per 10 milioni d'anno. Confermi sì, tutto, sì, certo. Sì. Confermo l'offerta. È vera, cioè l'hanno chiamato veramente. Il presidente di questo dubbio. Club ha obbligato il suo direttore sportivo e gli ha detto: ma dai, tanto viene mai. Chiamalo. E l'ha dovuto chiamare. Quindi. Mi viene in mente quando negli anni 80 c'era Dan Peterson che per Milano tentava di prendere Barkley, Larry Bird, ma ci provava davvero anche lui, li chiamava, esatto. Li chiamava. No, al massimo ti rispondono di no, Che c'è per dire? Vuoi venire? Vuoi venire? Ciao. Male che fa, ti dicono non posso venire. Certo, è come chiedere a una meravigliosa ragazza di uscire. Nella peggiore delle ipotesi, esatto. Dice di no. Esatto. Che vuoi fare? Muore nessuno. Legge, è una legge della vita. Poi è chiaro che se cominciano a dirti tutti di no, fai delle domande. Però, allora hai dei problemi, sì. Però chiedere non costa nulla. Mezzo di quello non ti posso perdere, tanto. Grazie Luca, grazie come sempre. Ciao Luca Marchetti. Ciao. Io prima di salutare Pardo volevo fargli sentire una musichetta, una canzoncina. Non è che ti voglio invitare a cena, anzi se vuoi ti invito, molto sì. Volentieri, però è piuttosto il Capello che ha qualche problema con le cene, hai letto? Sì, ha fatto questa cena di addio. A un ristorante a Mosca che non costa neanche 2 soldi, ha prenotato per 50 persone la sua cena d'addio, si sono presentati giocatori della nazionale numero 4. 4, sì, vabbè, ma insomma... Kokorin, Kerzakov, Berezushi e Samedov, gli altri avevano altri impegni. Beh... Grande coraggio, gente piena di coraggio, diciamo. Sì. No, non so come sia andata, francamente. Insomma, però è curiosa. Nello spogliatoio mi sembrava un gesto visto dall'esterno, mi sembrava un gesto bello da parte assolutamente. Di Capello. Ecco. Assolutamente. Gesto nobile ed elegante. Se alcuni non ci sono andati perché gli sta antipatico Capello, se altri non ci sono andati perché magari in questo momento Capello viene visto come il nemico in federazione, quindi. Sarebbe stata questo sarebbe ancora più triste, cioè, ecco, delle due preferisco la prima, sì. Antipatico non ci una va, delle motivazioni più gettonate è che non potevano andare perché il giorno dopo erano impegnati perché c'era la prima di campionato, però insomma credo che ci si potesse mettere d'accordo per andare, sì. Per fare una cosa del genere, no? Capello, diciamo che ho letto la sua buona uscita, no? Credo che potrà consolarsi di questa, sì, di questa scena, assolutamente non avrà grandi problemi. Siamo disponibili per andare a cena al Capello perché è sempre divertente, certo. Se ci invita noi ci presentiamo, questo è sicuro. Ciao Pier, ciao. Sentiamo domani alle 2. Andrea da Firenze, Marco da Verona dopo il GR. Andrea, buongiorno. Non risponde, Marco, buongiorno. Ciao, buongiorno. Dimmi. Comunque, se non ci andava nessuno a cena di Capello, ci andavo io. Ma sì, ma anch'io. Cioè, è un po' fuori mano per noi, sia per lei da Verona, esatto. Che per me da Milano. Un po' fuori mano. Però, un pensierino si può. Magari. Sì. Ok, esatto. Niente, volevo dirti, ma secondo te, come lo vedi la spiega con Pazzini e Toni? Secondo me mi preoccupa un po' la difesa, però l'attacco quest'anno, almeno da tifoso, prevedo faville. Se Toni è quello che abbiamo visto negli ultimi 2 anni, le faville arrivano sicuro. Poi Pazzini e Toni mi sembrano due giocatori sulla cui compatibilità tecnica si dovrà lavorare, perché sono due prime punte, però quando due attaccanti sono bravi e sono così bravi si riesce a trovare la soluzione. Ci sentiamo dopo il giornale radio, 800 24 00 24, il numero verde. Non si rendono conto che il tempo è finito, finisce qua primo tempo. Tutti convocati. Dove ti piacerebbe andare quest'estate? In un posto poco conosciuto e possibilmente a buon mercato. E che cosa ti piacerebbe fare? Riempirmi gli occhi di cose belle. Con chi ti piacerebbe partire? Con la mia famiglia e i miei amici a quattro zampe. E tu? Con i miei amici, con mio marito o forse anche da sola. Sono Annerita D'Ambrosio. Sono Valeria De Rosa. Ogni settimana vi accompagneremo in giro per l'Europa. Vi aspettiamo a Globetrotter 24. Globetrotter 24, il sabato alle 16 e la domenica alle 17:30 su Radio 24. Che dire, arrieccici. Convocati. Bianchi che viene trasportato, è stato trasportato, quindi la conferma è che Jules Bianchi, che ha evidentemente avuto un impatto violento uscendo dopo Adrian Sutil, abbiamo visto la dinamica, Bianchi trasportato dall'ambulanza al centro medico, ovviamente adesso aspettiamo aggiornamenti per capire quelle che sono le condizioni del pilota francese della Marussia. Un titolo tremendo, ma che non, al quale non potevamo sottrarci. Dicevo prima, è stato un weekend terrificante questo, la morte di Jules Bianchi dopo 9 mesi e mezzo di un'agonia disperata, è il caso di dirlo. Poi c'è stato, l'ho detto prima, in Moto America, Laguna Seca, gara di contorno della Superbike, le morti di 2 piloti spagnoli, Martinez e Rivas. Ciao Leo Turrini. Ciao caro Carlo, come va? Bene. Dammi un tuo ricordo di Bianchi, guarda, che era uno della famiglia Ferrari, Sì, io potrei dire tante cose, ma la prima che mi fa piacere recuperare la memoria, io ho parlato con Jules l'ultima volta a Monza l'anno scorso in settembre, perché si sapeva che lui era uno dei candidati al volante della Ferrari, non subito ma nel 2016, e allora gli avevo chiesto se si sentisse pronto per un'avventura tanto importante, e lui mi aveva guardato con un sorriso e mi aveva detto: ma se pensassi di non poter vincere un gran premio con la macchina rossa, smetterei di fare questo mestiere. E mancavano poche settimane all'appuntamento con il destino a Suzuka. Io, guarda, credo una cosa, perché Jules è stato detto, scritto, raccontato da tutti, è la prima vittima della Formula 1 dopo Ratzenberger e Senna. Questo episodio tristissimo, per quanto diluito nel tempo, perché l'ufficialità della disgrazia non è stata data nell'immediatezza, ma come ricordavi ci sono passati più di 9 mesi. Ecco, io credo che un episodio come questo ci debba aiutare a ricordare sempre che, comunque, per quanto banale possa essere sottolinearlo, chi di mestiere fa il pilota di un'automobile, di una motocicletta, accetta questo rischio, si espone a un rischio. Sì. Noi, sai, talvolta lo dico per me stesso, in prima persona. Io sono d'accordo al 1000%. Siamo portati, anche quando facciamo i nostri commenti, no? Magari talvolta prendiamo in giro il tale. Io ad esempio mi ricordo, per stare adesso, no? Ogni tanto ho fatto delle battute su Maldonado, sul mio amico Maldonado, incidente spettacolare di Maldonado. Una volta c'era un pilota in Minardi che si chiamava Mazzacane, che arrivava sempre ultimo, e io dicevo che si chiamava così perché, essendo argentino, nella Pampa aveva fatto strage di randaggi. Ecco, poi quando ti capitano queste cose ti penti, perché capisci che anche quello che lotta nelle retrovie, nel caso di Bianchi era così, perché in Formula 1 pilotava una Marussia, che non era certo una vettura da prima posizione. Ecco, anche chi sta in fondo invece non solo accetta questo rischio, ma si rende disponibile alla nostra emozione collettiva. Penso che dovremmo appunto avere sempre presente questo. E poi, vabbè, l'altra cosa banale, anche quella, Carlo, ma è vera, ho fatto tantissimo in Formula 1 per la sicurezza. Ma sì, oggi suona male. Non succedeva da 21 anni, però purtroppo non è mai abbastanza, perché evidentemente quella domenica dannata in Giappone è stato un cumulo di negligenze, di stupidità, che poi hanno determinato l'incrocio fatale, no? Con l'imprevedibile. Quindi non bisogna mai abbassare la guardia. No, questo no, ma sempre comunque, come hai detto tu, ricordarci che è uno sport terribilmente pericoloso, che si va su degli attrezzi che vanno a 400 all'ora. Carlo, io lo dico per me stesso. Ma possiamo ripetercelo tutti insieme, come un mantra. Ci vuole da parte mia anzitutto un rispetto maggiore per chiunque vada a vivere quell'avventura lì, perché non è vero che guidare, nel caso nostro, una monoposto di Formula 1, sai quante volte sentiamo dire: ah, ma adesso sono diventate come le PlayStation, possono guidare anche i bambini, no? Sarebbe sufficiente un joystick. Ragazzi, non è vero, anzi io ci pensavo in queste giornate dopo che è arrivata questa notizia tristissima, e quante volte invece è andata bene, no? Penso all'episodio di Raikkonen in Austria poche settimane fa, o Alonso in Belgio nel 2012. Ecco, questo vorrei farmene carico io, queste persone, questi che fanno i piloti, sono comunque ragazzi animati da un entusiasmo. Una volta venivano chiamati i cavalieri del rischio, no? Oggi non usa più, e per fortuna non usa più, perché è vero che i drammi si sono molto ridotti rispetto all'epoca dei nostri genitori, però va sempre tenuto presente che non stanno facendo, hai capito, una passeggiata nel parco, non però stanno andando a prendere anche un caffè al bar. No, ma anche senza dimenticarci che fanno probabilmente la cosa che più a loro piace al mondo, eh. Quindi... Assolutamente, ma io guarda, io conoscevo Bianchi perché era della scuola Ferrari, diciamo così, no? Lui veramente aveva questo tipo di ideale, di passione che lo animava, vorrei dire, in ogni fibra del suo essere, no? Tra l'altro era anche proprio esaltato dalla prospettiva di diventare un pilota della Ferrari, e sarebbe stato il primo ad occupare quel ruolo dopo aver percorso un certo cammino all'interno no, della struttura della scuderia. Ma guarda, adesso mi vengono in mente robe, il capo della Driver Academy di Maranello, come si chiama la scuola di pilotaggio, è Luca Baldisservi, no? Che era ingegnere di pista, e proprio prima di Suzuka eravamo capitati a mangiare assieme e lui mi aveva detto: guarda, questo Bianchi è il ragazzo che dimostrerà che questa politica della Ferrari, no, di puntare su giovanissimi quando sono appena usciti dai car, accompagnali nei campionati minori, ecco, dimostrerà lui che si tratta di qualcosa di saggio, perché mi disse: Bianchi, l'ho visto in Formula 1 con la Marussia, è arrivato nono a Monte Carlo, guarda, arrivare nono a Monte Carlo con la Marussia è come andare sulla Luna in bicicletta, sì, per capire, sì, no? Sì. E quindi lui era proprio, diciamo così, the chosen one, il prescelto, no? Quello che avrebbe anche dato un senso a un discorso strategico di un certo tipo. Quindi a volte veramente il destino è cattivo, ecco, io posso dire solo questo. Poi guarda, l'altro giorno ero in spiaggia, ho trovato Stefano Domenicali, che adesso ha l'Audi, ci siamo abbracciati, eravamo per caso lo stesso mare, e lui mi ha detto: guarda Leo, io la cosa quale sono più orgoglioso i miei anni in Ferrari è di aver inserito Bianchi nel nostro sistema Ferrari, perché era stato lui a prenderlo, no? Perché veramente era un ragazzo che per carattere, per talento, per tutto era fatto per quella cosa lì, bravo, meritava quell'opportunità lì, e adesso siamo qui a fare questi discorsi. Scusa, io sono molto triste oggi rispetto al solito, ma no, ma lo siamo tutti quanti, ma penso che lo siamo tutti quanti. Ti faccio un'altra domanda che non riguarda invece questo, no, perché ieri mi è capitato di rileggere, credo sia la quarta o la quinta volta, Il Pirata dei Cowboy, il libro che hai scritto, su Armstrong e Pantani. Si vede che resisti tu all'usura, perché di solito chi legge un mio libro si sente male a metà. Io vado avanti a leggere, ogni tanto lo ripesco alla libreria e me lo rileggo. Sono fatto così, i libri che mi piacciono devo rileggerli. Mi è venuto, pensavo intanto al tour, a questo tour, a questo From un po' accerchiato dai media, sui quali si concentrano un sacco di sospetti, sui quali è cominciato quasi un battage pubblicitario contrario. Cosa ne pensi? Ma guarda, io sto seguendo come te. Allora, dobbiamo essere, se possibile, onesti. Già 2 anni fa, quando Froome vinse il suo primo tour, ce lo ricordiamo perfettamente. C'erano state le famose frullate in salita, no? Tante osservazioni, gente che aveva detto: questo non è possibile, questo va contro le leggi della fisiologia, eccetera. Io non lo so, ma io mi riconosco abbastanza in una cosa che ha detto Hollande, il presidente dello Stato francese, l'altro giorno proprio al turno, che ha detto, credo valga comunque al di fuori anche dello sport, se sospettiamo di tutti non rispettiamo nessuno, per cui alla fine della fiera bisogna che noi iniziamo a ragionare sulla base di prove solide, o ci sono o non ci sono. Io sinceramente sono un profano, certe volte vedendo Frum pedalare in salita, no? Penso come te, visto che anche tu come me vai in bicicletta, mi sono detto, ma non mi sembra tanto normale, no? Ce lo diciamo, cioè nel senso che c'è qualche cosa che ti lascia un attimo così. Però quando si appartiene a una comunità, il tour è una comunità, il ciclismo è una comunità, o si crede nelle regole e si crede che queste regole vengano rispettate, oppure o non si rispetta nessuno, come hai detto tu prima, come ha detto Hollanda, e sono anche in questo caso d'accordo. Ma guarda, purtroppo quello che ha detto Armstrong ha tutte le sue colpe, no? Lo sappiamo, io e te ne abbiamo anche parlato in trasmissione, eccetera. Ma l'altro giorno ho sentito che Armstrong ha detto, ma Froome purtroppo per colpa mia paga per colpa mia, perché dopo quello che ho fatto io, che è emerso dopo, oggi di fronte a un'impresa, in questo caso ciclistica, chiunque è portato a pensare che ci sia dietro la fregatura, no? certo. E questo è il famoso discorso della coccaccia. Ci sei scottato una volta, col ciclismo ci siamo scottati 40 volte. Adesso abbiamo paura anche di quella tiapida. Io lo dico sempre a proposito di Bol, no? Che adesso non so come si chiama in 100 metri. Non benissimo, gareggia un po' sempre. Però io dico sempre, io spero che Bol sia pulito. Ma è chiaro, perché fenomeno assoluto. Io l'ho visto in piedi mondiali, ho scritto delle sue imprese, cioè mi venissero a dire, ma questo è marcio fino al midollo, come Ben Johnson, no? O come Gatling, che poi adesso è tornato e va fortissimo. E questo sarebbe un colpo durissimo, non tanto per Bolto, solo per Bolto, ma anche per noi, che abbiamo visto un fenomeno. Ma è chiaro, allora, Leo Torrini, ti dico l'ultima cosa, caro, perché ti voglio bene come fratello. Gianpaolo Ormezzano, che poteva essere per me te un padre, un grandissimo giornalista sportivo, dagli anni 80 cominciò, quando scriveva di ciclismo, di atletica o di sci di fondo, a mettere all'inizio di ogni suo pezzo su una grande impresa due lettere SD, e poi spiegava che voleva dire salvo doping, no? E fatta questa premessa poi raccontava quanto era stato bravo il fondista, il ciclista, l'atleta. Ecco, oggi purtroppo il nostro presente è questo, dobbiamo adattarci a questa roba. Sì. Anche se resta prendo per oro colato le parole che hai citato prima di Hollande. Senti Leo, prima di salutarti, vuoi fare gli in bocca al lupo a Ivan Basso, che è collegato con noi? Ah, volentieri, io non ho il piacere di conoscerlo di persona, ma sono suo tifoso, vado in bicicletta, per cui Ivan, io sono sicuro non solo che sei già guarito, ma che ti rivedremo anche col numero attaccato sulla schiena, e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per noi amanti del ciclismo sulle strade del Tour, del Giro d'Italia e altrove. È veramente una persona nella quale io come italiano mi riconosco. Forza Ivan, ti vogliamo bene tutti. Sentito Ivan? Grazie, gentilissimo, grazie di cuore. Questo era Leo Turrini, che ringrazio. Grazie Leo. Ciao Carlo, ciao Ivan. Ciao. Come stai Ivan? Bene. Perfetto. Grazie, siamo in una fase di convalescenza, però bene, sono sereno, ottimista, siamo... Ogni giorno ci sono delle buone novità, adesso a breve avremo più chiaro anche come proseguire con convalescenza e cercare velocemente di recuperare questo momento delicato che però ho sempre affrontato con il sorriso e l'ottimismo, grazie un po' a tutti. Eh sì, guarda, io l'altro giorno quando insomma avevamo un appuntamento telefonico l'ho detto, l'ho scritto in un pezzo, adesso l'unica cosa che voglio, ho detto, è parlare con Ivan Basso a questa radio e sentirlo dire queste cose, quindi ti ringrazio. Adesso parliamo di questo tour, perché mi sembra che sia quasi finito, Ivan. Ma questo non sono proprio d'accordo, perché vedrete che anche oggi è una tappa complicata, una tappa difficile che avevamo comunque messo tra quelle così da curare con grande attenzione, perché il finale è veramente complicato, non tanto la salita che è dura ma non durissima, ma il finale è veramente impegnativo con una discesa molto tecnica, quindi diventerà un finale interessante. Per come è in questo momento la corsa, ci saranno con ogni probabilità due gare quindi la gara per la vittoria di tappa è dietro sicuramente Movimento tra i migliori della classifica. Secondo te chi può essere ragionevolmente ancora in corsa? Ricordo Quintana ha 3.10 ed è secondo, poi c'è Van Garderen 3.32, Valverde 4.02, il tuo capitano Contador 4.23, Thomas Britannico 4.54, Gersing 6.23 e ottavo Nibali 8.17. Chi ragionevolmente può essere ancora della partita? Diciamo che fino a questo momento Froome ha dimostrato di essere il più forte e ha dimostrato anche di saper gestire il vantaggio che ha senza grandi problemi. Il Tour manca, dopo il giorno di riposo ci saranno tutte le Alpi da fare, quindi è ovvio che se Froome continua con questo rendimento è impensabile che quelli dietro possano recuperare uno svantaggio così importante. Però non esiste solo il primo posto, è ovvio che tappa dopo tappa si fanno delle valutazioni e più ci si avvicina a Parigi le possibilità sono sempre meno, quindi io credo che nella prossima settimana, se Froome continua con questo rendimento, è ovvio che non diventa difficile pensare di andare a conquistare la maglia gialla, ma i campioni che sono dietro di lui sanno benissimo che il Tour è una corsa dove si lotta anche per il secondo posto, il terzo posto, il quarto posto e a seguire. Certo, questo è evidente. Un'ultima cosa, Ivan, il Tour di Nibali, dove ha sbagliato secondo te, oppure è stata una questione di sfortuna? Perché in queste corse, tu lo sai meglio di tutti gli altri, la testa conta quanto le gambe, e se si incrina qualcosa nelle tue convinzioni e poi è difficile riaggiustarlo. Io trovo che dire cosa ha sbagliato sia irrispettoso nei confronti di un atleta, di un campione come Vincenzo. È comunque ancora in classifica, non è maglia gialla, ma bisogna pensare che è al Tour, non è alla corsa parrocchiale. Esattamente, è al Tour de France, sta lottando con i corridori migliori del mondo, ha dimostrato di avere dopo una giornata difficile nella prima tappa di montagna di avere una reazione, e se sei lì è perché hai le gambe. Io trovo che a volte così è crudele dare dei giudizi ad un atleta che ha un momento di difficoltà, pensare che ha sbagliato. Non ha sbagliato nulla, ha trovato degli atleti forti che a quel livello è sufficiente non bisogna avere una giornata negativa per andare così, è sufficiente avere una giornata non al top, e quindi i distacchi sono quelli. Io credo che Vincenzo è un atleta con coraggio, saprà fare un'ultima settimana di Tour veramente all'altezza del suo livello, cercherà di recuperare più posizioni in classifica, perché vale lo stesso discorso anche per lui, anche se l'ha vinto l'anno scorso, fare un piazzamento importante al Tour è un grande risultato sportivo. Questo vale per Nibali e vale anche per il mio capitano Contador della Tinkoff Saxo, che ha vinto il Giro con grande coraggio, ha deciso di partecipare anche al Tour ed è ampiamente in lotta per conquistare ancora ogni traguardo. Come ho detto, Froome è molto lontano e per riuscire a batterlo non bastano i meriti di chi lo segue, ma bisogna anche dei demeriti suoi, nel senso che deve avere forza anche lui delle giornate. Però questo è il ciclismo, il bello del ciclismo, che rimane incertezza fino alla fine, perché ci sono ancora tutti i campioni in gara, e quindi questo porterà questo Tour ad essere spettacolare fino alla fine. Ivan, grazie davvero, ti abbracciamo forte e ci sentiamo presto, ok? Grazie mille, grazie Ivan Basso. 800240024, se avete ancora voglia di chiamarci, ma manca poco alla fine della trasmissione. Io ho ancora una cosa da farvi sentire, perché c'è stata l'inizio della spedizione della nazionale italiana agli europei di basket, forse mai come in questo caso abbiamo voglia di puntare forte su questa nazionale. Le stelle ci sono tutte e a quanto pare, a sentirli parlare, hanno grandi motivazioni. Cominciamo con Belinelli. Dobbiamo partire coi piedi per terra, dobbiamo cominciare prima di tutto a conoscerci bene sul campo e fuori, fare un bel gruppo e comunque cercare di fare una bella squadra. Questo era Belinelli, ma poi c'è anche Gallinari. Ma penso che sia giusto così, insomma, io la vedo così, dove c'è pressione vuol dire che c'è anche qualità e quindi va bene così, siamo contenti di coglierla e utilizzarla a nostro favore. Quello che c'è di diverso rispetto agli altri è solo il contatto, quindi non potremo fare contatto agonistico, nella prima parte a Folgaria prima del torneo di Trento ci sarà molto poco contatto, quindi comunque perderemo veramente poco, però abbiamo la possibilità comunque di fare lavori individuali, lavori in palestra che fanno tutti gli altri. E ci saranno davvero tutti, Gallinari, Belinelli, Bargnani, Datome, più i nostri che, insomma, io continuo ad avere fiducia, non lo so, forse vedrò tutto con gli occhiali rosa, ma credo che una nazionale così competitiva forse non l'avevamo mai vista. Adesso tocca a Pianigiani usare la formula chimica necessaria. Coach. Quest'anno crediamo di essere tutti con un atteggiamento giusto e l'idea è quella di competere, poi... lo sapete, lo avete detto, lo sappiamo tutti, il girone è quello, le avversarie anche, 5 partite in 6 giorni nello sport significa che veramente può succedere di tutto, però noi dobbiamo andare lì per cogliere l'attimo, poi è quello il momento in cui devi essere pronto, devi essere competitivo e poi lì quei dettagli che fanno la differenza se sei competitivo con gli altri cerchiamo di spostarli a nostro favore, però è chiaro che devi averlo questo fuoco dentro, devi averlo perché rappresentiamo un movimento, perché quando hai questa maglia qua non puoi fare altrimenti. Dunque, queste le parole all'inaugurazione della spedizione. Gianni da Firenze, abbiamo 1 minuto e 15 per parlare insieme, buongiorno. Sì, ciao, buonasera. Dimmi. Senti, io volevo dire, se ce la faccio in un minuto, voglio sapere, voglio dire, per Romagnoli mi sembra 30 milioni, mi sembra follia pura, perché 30 milioni per Romagnoli secondo me veramente, e poi volevo sapere più o meno la quotazione di Benazia dell'anno scorso, in effetti vabbè hanno speso 40 mi sembra per Condobbia, quindi anche lì secondo me non so, forse ne varrà forse la metà, se va bene. Però comunque questa è una mia opinione, per carità. No, ma si tratta di trovare dei parametri, Gianni, l'opinione è corretta, si tratta di trovare dei parametri, ad esempio per me David Luiz quanto l'ha pagato il Paris Saint Germain? 56, insomma, se il parametro è quello Romagnoli vale 30, se David Luiz vale 56 milioni è chiaro che sono i conti della massaia, però se i parametri sono questi, con Dombia 40 le cifre che abbiamo sentito sono queste qui, beh, se mi dicono 30 per e 31 per Benazia l'anno scorso, se mi dicono 30 per Romagnoli, che è chiaro, è un investimento, è chiaro che è un giocatore emergente, però insomma si tratta di capire dov'è l'asticella. Grazie Gianni, grazie Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, ovviamente ci sentiamo domani dopo l'Europa, quindi poco dopo le 2, ciao ragazzi.